cosa che vorrei dirti adesso. È come una strofa chiusa in un cassetto. Mi guarda allo specchio, odio quel viso. Voglio cambiare, continuare, ma rimango sempre lo stesso. Quanto odio, quanta vita, quanto amore. Baby, ti prenderò e ti porterò via. Ti lascerò toccare le corde dell'amore. E se tu sia, leggerò la nostra storia e scriverò la nostra vita. Qualche volta vorrei camminare con te, tenerti per mano e raccontarti favole, guardando in quegli occhi così profondi. Posso vedere un mare calmo, una foto limpida e un amore che non finirà. Baby, ti prenderò e ti porterò via. Ti lascerò toccare le corde dell'amore. E se non sei qui ora, aspetterò ovunque tu sia, leggerò la nostra storia e scriverò la nostra vita. Cercando qualcosa.